Annunciamo, annunciamo, ritorna la zanzara, annunciamo. Stiamo parlando del criminale Assad. E tu sei una testa di cazzo Stiamo internazionale, parlando, brutto stiamo parlando. stronzo che non sei altro. Ma che Ma che cosa stai dici? parlando? Ma Stai a sentire quello una che volta dico? facevi il Stai a giornalista sentire anziché calma. Tu insultare. sei Ma che cosa una sei? testa di Pagato cazzo da Assad! completamente. Pagato da Assad! Pagato da Brutto Assad! stronzo. Pagato da Assad! Allora io ti Pagato da denuncio. Assad! La zanzara. Tutto il resto è non ho detto gioia. Ancor più da temere era il geometra Calboni per una sua turba dal nome scientifico di Ventilatio Intestinalis Putrens. L'aria diventò subito irrespirabile. Mamma mia, che puzza! Buccettone, ma perché non vai in toilette invece di appestarci con questi tuoi venti? Ma scusa, Calboni, ma sei impazzito? Ma non sei tu che ti sei sempre vantato di aver partecipato a questi campionati Io? di... Quando mai? Ma che fiete! Senta, ragionier Fantozzi, qui non si respira più. Abbi la compiacenza di andare fuori dallo scompartimento a scaricare l'aria dei suoi Perché si intestini, ha sbaglia? capito? Va di fuori, ragioniere, va di fuori! Va fuori, no! Guardate che non è qui! Si faccia il piacere, se ne esci, se ne esci! Vai, vai! Buon rientro, merdine, soprattutto a Parenzo. Spero che qualche hacker t'ha prosciugato il conto in banca. Quanto godrai, guarda. Bentornato a te, Giuseppe, bentornato a te. Non ha due cose inutili e pezzi miei. Ancora due cose, ancora la secondata il suo pezzi miei di Parenzo, cose miei di fango. Ancora tu conosci ancora. Facci stare a sangata alla sette, Giuseppe. Assicutalo, mandalo via il suo miei di Parenzo, Giuseppe. Grande Giuseppe, numero uno, Giuseppe. Ah, Parenzo, ma almeno st'estate ti sei fatto squirtà addosso? Caro Davide, non so se hai riconosciuto nella vedo, voce. Vedo che chiamano, che come al solito la corte, il regista di questa porcilaia, ha fatto un fior da fiore, un'antologia del peggio di questi criminali, criminali incolti che chiamano costantemente, anche d'estate. C'è gente che non si arrende, che anche durante l'estate lascia i messaggi alla segreteria telefonica. Ma fatevi una vita, avete un mese di ferie senza la zanzara, ma abbracciate vostra moglie, vostra figlia, la vostra compagna, la vostra madre. Ma perché telefonate? Perché anche nel mese di pausa di questa roba telefonate? Perché? E poi ho visto con piacere che ha rimesso nella sigla iniziale quel piccolo diverbio che io ebbi con il signor Chiesa. E come no? Beh, certo. Grazie per aver, come dire, no, rinfrescato la memoria. Grazie, grazie. Qual è il personaggio del giorno oggi, ragazzi? Qual è il personaggio del giorno? Ce ne sono tanti tra cui scegliere, caro David. La questione della malaria della ragazzina morta, purtroppo una storia drammatica. Questa qua, devo dire, quello che è successo dopo è incredibile, incredibile. Ti scelgo tre persone. Il primo, lo dici anche tu che è incredibile. Sì, è abbastanza incredibile, sì, devo dire la verità, è incredibile. Anche perché, anche perché non è che la malaria l'ha portata un immigrato. Cioè, diciamo la verità. La malaria, il ministro dice potrebbe averla presa in ospedale a Trento, forse l'ha detto troppo presto. E ancora non si sa un cazzo. Ti dico, i Uobi, sai chi è i Uobi? Tony Uobi. Sì, come no, è l'immigrato della Lega che è responsabile dell'immigrazione. Un uomo di paglia, dici tu, no? Una specie Tony di Uobi, Tony Uobi. Una specie di uomo di paglia. Ma il fatto che ci sia, ma quindi, l'hai mai visto tu, un nero che fa parte di un partito nel quale qualcuno vuole cacciare i neri, ma cioè una roba interessante. Vabbè, curiosa, questo qua no? Dice che bisogna subito chiudere i confini a causa della bambina morta di malaria. Questo i Uobi. La Biancofiore, bambina morta di malaria, colpa degli sbarchi. colpa degli sbarchi. Ma perché la gente dichiara senza sapere? Grimoldi, la Lega. White Flower, perché senza sapere? Grimoldi, Lega, immigrati portano malattie. Una bimba mancava. Morta di malaria a casa nostra senza mai essere andata all'estero. Sembra evidente che a portare in Italia malattie che da noi erano state debellate da decenni sono gli immigrati che arrivano dall'Africa. Ma sono gli italiani che non si vogliono vaccinare, ma che dite? Ma forse la palma di personaggio del giorno va data al signor Roberto Calderoli, sempre esponente del partito, chiamasi Lega Nord, Parenzo. No. Un altro stupro commesso da un richiedente asilo. Perché non somministriamo loro farmaci per inibirli sessualmente fino a quando sono sul nostro territorio? Cioè, il signor Calderoli vorrebbe... ragazzi, io sono contro l'immigrazione clandestina, lo sapete, io sono ferocemente contro l'immigrazione clandestina, sono per provvedimenti all'americana, alla spagnola, e io sono a favore... La parola clandestina, come no? Non sono più richiedenti asilo, quest'estate c'è stata la svolta, Parenzo! C'è stata la svolta, avete finito con quest'estate, con quest'estate, avete finito, avete chiuso bottega, avete chiuso bottega, Minniti ha preso la posizione della zanzara, ha sentito la zanzara e ha detto chiudiamo la Claire, chiudiamo la Claire. Ma certo, Claire certo, Claire non si sa bene che fine facciano quei signori in Libia, lì. Non Libia, si sa bene, la... ma lasciamo le note prigioni libiche, le note prigioni comunque libiche. Calderoli cosa vuole fare? Cosa vuole fare? Vuole praticamente dare delle pasticche, non so di che cosa, di bromuro, degli inibitori, dei farmaci per inibire tutti quelli che arrivano. Cioè per prevenire gli stupri. Senti questa cosa qua. Arriva un immigrato. Ma dovrebbero essere più eccitabili e più sessualmente malati. Beh, quello sicuramente sono più affamati sessualmente, lo ma saranno. Questo più affamati come sessualmente. Più affamati di te, non c'è nessuno. Ma quello Calderoli non ti conosce. Siccome Calderoli non ti conosce, Calderoli conoscesse Crugiani veramente anche nel suo libro, capirebbe che il vero fordista delle donne sei tu, voglio dire che avresti amplessi con qualunque cosa e passi il movimento non davanti a te. Adesso, non esageriamo. Ma qua adesso non stiamo esagerando, stiamo dicendo la verità, però voglio dire. Comunque Calderoli vuole dare una pillolina di bromuro a tutti quelli che arrivano, i richiedenti asilo, dice anche temporaneamente, no, ma la cosa incredibile. No, ma tu ti rendi conto no, di ma io ti voglio dire, leggere letteralmente questa cosa, ma no, soprattutto ma legge, perché non aspetta, chiudere. Perché non somministriamo dei farmaci a questi richiedenti asilo per inibire temporaneamente i loro impulsi sessuali? Un trattamento farmacologico limitato ovviamente solo al periodo di permanenza del richiedente asilo in Italia, fino a quando sono mantenuti dai cittadini italiani e sono ospiti a casa nostra. La cosa incredibile. Vabbè, magari c'è qualcuno. Io sono sicuro che ci sono molte persone che sono d'accordo, No, ma come si. Ma ho capito, ma molte persone erano d'accordo anche alle leggi razziali in Italia, però. Ma di che parliamo? Gino Strada dice che Minniti ha fatto un atto di guerra contro i migranti, ragazzi. Però no, io non detto anche che Minniti è uno sbirro. Sì, è uno sbirro. Come se la parola sbirro. Come se la parola sbirro. La parola sbirro è come se fosse una parola negativa, capito? Essere poliziotto. Beh, sì, no, strada contro la polizia italiana. Strada contro la polizia italiana. Mi ha colpito molto l'uso della parola sbirro. Perché chiaramente. Senti, ma Strada odia la polizia. Mi pare evidente che odia la polizia. Vabbè, da questa parola, dire a una storia da sbirro, Minniti, significa che non sopporta la polizia. Da sbirro significa da poliziotto cattivo. Da sbirro, cioè identificare la polizia come delle persone come delle persone pericolose, come delle persone che possono limitare la tua libertà. Questo è Minniti, atto di guerra, poi sbirro, dai. Questi accordi con la Libia e questo decreto fatto dal Ministero dell'Interno per me è niente di più e niente di meno che un atto di guerra contro i migranti. Un atto di guerra. Un atto di guerra contro i migranti, cioè cercare di portare ordine nella situazione caotica creata dai governi sempre del PD, eccetera, ma anche da quelli precedenti, per carità, da tutti, significa l'atto di guerra contro i migranti. E poi i migranti non è che è un'entità, cioè non è che uno l'atto di guerra contro i migranti. Che cazzo vuol dire l'atto di guerra contro i migranti? Cioè no, questi qua dire... No, dai, Davide, che è insopportabile. Gino Strada viene considerato e sarà sicuramente una persona per bene, quello che vuoi, uno che fa del bene in tutto il mondo, però non si può fare un accordo con dei capi tribù. Ma quello lascia. Ah, tu sei contro gli accordi Minniti. E poi non interessarsi di come vivono queste persone. Vabbè, ma ha portato. Posso ricordare che respirano, cioè hanno lo stesso sangue di Mauro da Mantova. Respirano come Mauro da Mantova. Mangiano meno di Mauro da Mantova perché mangiano meno. Quindi che cosa hanno? Sono delle persone. Ma cosa c'entra? Perciò, dai, ma questa è retorica, dai. È gente che quando guarda il sole dice c'è il sole, come Mauro da Mantova. Ma che cazzo vuol dire? sono delle persone. Sono allora, delle ragazzi, persone. Però diamo, diciamo le cose come stanno. Gino Strada viene considerato un guru, viene considerato no, un'icona, viene considerato una sorta di simbolo intoccabile. Signore, il medico, no, di guerra, in questo caso bisogna avere il coraggio, e solo noi ce l'abbiamo, di dire: ha detto una cazzata, no, ha detto una coglionata, perché non esiste la categoria di migranti, l'atto di guerra contro. Io non ho nessuna simpatia per Minniti, posso essere d'accordo per le politiche che fanno, ma non è che sono amico di Minniti o sono il fratello di Minniti, ma dire che Minniti, il ministro degli interni, ha fatto un atto di guerra contro qualcosa che non esiste, cioè la categoria dei migranti, non esiste, non sei il protettore dei migranti, Gino Strada. Sentiamo lo sbirro, dai. E tra l'altro questo è il ministro degli interni, no, però va a fare gli accordi all'estero, non si capisce niente di cosa fanno questi qua. Minniti ha una storia che è una storia da sbirro e va avanti su quella strada lì, cioè per lui consegnare o ributtare indietro bambini, donne incinta, poveracci e farli finire nelle carceri libiche ammazzati o torturati è una cosa che è compatibile con i suoi valori, vabbè, con i miei no, però lui evidentemente si sente anzi orgoglioso di quel che ha fatto. Vabbè, ma mi fa impazzire questa gente che giudica sempre, stanno sempre lì a giudicare. Beh, Giulia, cosa fa? Sono lì sempre lì a giudicare. Ma a giudicare, dice la sua, hai come le la... tue idee su come dice risolvere la situazione? Come la risolvi la situazione? Come la risolvi? Io non la condivido, ma lui c'ha un'idea, a differenza di Mauro D'Amato. Cioè, il parere di Gino Strada vale mille volte di più, perché fa delle cose utili rispetto a quel senza anima lì di Mauro D'Amato, che l'unica cosa cosa che fa adesso? È funestare, no? Perché tu metti sullo stesso piano il parere di Mauro D'Amato, assolutamente, Strada, sì, non può assolutamente essere più così, non può passare più questa cosa, perché sarebbe come se io parlassi di matematica e ci fosse un convegno tra me, sì, e ma Einstein. Comunque al di là di questo, sì, la cosa che veramente dà fastidio è questa cosa dello sbirro. Il parere di tutti non è uguale. Vabbè, non ma lo sbirro uguale. Ti fa piacere che ha detto questa cosa? No, gli sbirri? No, ma assolutamente non mi ha una storia da sbirro. Vergogna. Di un questore, io sono nipote di un questore, il dottor Caracciolo, mio nonno, era vabbè, un ma adesso questo non ce ne frega un cazzo. No, lo voglio dire bene, perché io massimo già della politica, siccome so già, perché lo so già che chiameranno una quantità di stronzi, inizieranno a chiamare, che poi purtroppo le parole vanno dette, chiameranno questi miserabili, dico, ecco, Parenzo attacca la polizia. No, Parenzo non attacca la polizia, fermola, il nonno fermo, era fermo un questore. Il saggio napoletano dice: quando pirta feta, a cagata è pronta. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Vi presenta La Zanzara. Avanti tutta, David! Ragazzi, è semplice. Se come vecchi tempi volete parlare dei pompini fatti da Viados o di pisciata nel lavandino o volete andare a cagare a Parenzo in diretta, 800240024. Se invece come nuovo argomento volete parlare di quali pietre usare contro i migranti o di come si cucina uno stufato di rom o come vecchi tempi volete andare a cagare a Parenzo in differita, 393 7171 701. È ritornato il top. Ti segnalo, caro Davide, non che... ho capito questo qui, perché ci sono delle cose che tornano, che si possono fare sempre. Questo non c'è una costante, diciamo, nei messaggi di questo qua. Ti voglio segnalare che i signori di Forza Nuova, che secondo me ormai sono il Ku Klux Klan italiano, cioè Forza Nuova, anche perché spesso vanno vestiti di bianco, non capisco perché, cioè, si vestono con le camicie bianche. La giusta, la tua. Cioè Forza giusta, Nuova è legittimamente, secondo me, secondo te no, ma secondo me legittimamente una formazione che è vicina, molto simile al Ku Klux Klan italiano. Al confronto il Ku Klux Klan ha studiato da con Benedetto Croce. Ma no, non esageriamo, dai, non esageriamo. Di certe cose. Allora, sì, è difficile che quelli lì commettano, come dire, commettono delle cose, sì, non c'è nessuna, si mettono il cappuccio sulla testa, ecco, l'unica differenza. Ma dicono, ne dicono di tutti i colori, dai, su. Comunque, Forza Nuova, il capo di Forza Nuova, che si chiama Fiore, vuole organizzare delle ronde con le categorie, secondo lui, più vicine al popolo. Cioè, che sarebbero per fare delle passeggiate notturne per fermare furti e criminalità. Tra questi ci sarebbero tifosi di calcio, pugili e tassisti. Cioè, lui mette insieme pugili, ultras in pratica, tifosi di calcio e tassisti. Una bella compagnia. Allora, in un servizio oggi, durante la tua trasmissione, l'era che tira, ho sentito alcuni sgomberati a Roma che hanno detto che la polizia fa schifo. Perché? Sì, vabbè, questo. Perché la polizia anche sempre. Alcuni, anche gli ultras lo dicono la domenica. Vabbè, ma che cazzo stadio? C'entra? In questo caso non hanno detto gli immigrati, adesso che cosa no, c'entra? Anche gli ultras la domenica allo stadio, anzi, gli ultras la domenica allo stadio fanno, lanciano oggetti. Vabbè, ma cosa vuol dire? Ma sì, cosa vuol dire? Infatti, quando fanno così, spesso vengono ormai vengono arrestati. Anche gli ultras, tu, ma tu stai paragonando. L'acronimo ACAB, sì, sì. Vergognoso, sì, lo sai sì, o sì, no? È una cosa contro la polizia, certo. L'acronimo ACAB, appunto. Allora, sgomberati, fammi sentire gli sgomberati immigranti a Roma, dai. Sì. Sgombrare. Ancora la polizia, come si fa in noi? No. Sempre la vedo, tutti la polizia mi fanno tutti questo schifo. Mi fanno schifo. Un altro dice: siamo vabbè. Scappati dall'ISIS e abbiamo ritrovato l'ISIS in Italia, cioè con gli sgomberi della polizia. È ragazzi, se voi non rifugiata a me non che me... avrebbe dei diritti, senti, e che vengono disattesi da questo non c'è paese, nessuna cosa disattesa. La cosa fondamentale è questo: se tu occupi una cosa, se tu vai ad occupare una piazza, la signora ha un diritto, non me ne frega un cazzo. Tu non paese. Vai, non mi interessa. Questo diritto è disatteso. Ma quale sarebbe questo diritto? Ma quale sarebbe questo diritto? La signora ha usato un'espressione esasperata perché è stata cacciata da un posto almeno detto. Non me ne frega niente, occupi una piazza, occupi una piazza, occupi poi, una casa, se tu sei rifugiato, non sei rifugiato, te ne vai a fare in culo, non accusi la polizia di essere l'ISIS, chiaro? L'ISIS. Questo, lo Stato andrebbe denunciato per come tratta i profughi. Ma lo Stato denunciato di per come certo, tratta i profughi? Ma li accogliamo, gli diamo dei soldi, spesso le abitazioni. Passati via con la qua come fossero la prefetta. Viva gli idranti, viva gli idranti, viva gli idranti, perché non eravamo in onda con questa roba che si chiama Zanzara, di cui ancora non mi capacito, che va in onda su Radio 24, ma non importa. Quando non eravamo in onda, la prefetta di Roma ha usato l'operazione stupendo, di cleaning, stupendo, meraviglioso, stupendo, di meraviglioso, pulizia, di cleaning, bellissimo. Ma si può usare un'espressione bellissimo, che mi ha cleaning, viva pulizia, gli idranti, viva gli idranti sempre, sono fermo. Cosa ti aspettavi arrivando qua? Casa, una casa bella. Ma questo è un paese di cristiani, da quella musulmana siamo scappati. Abbiamo scappati da ISIS, abbiamo trovato un'altra ISIS qua. Vabbè, questa è una cretina totale. Mi aspettavo una casa bella. Cioè, tu vai via da un paese e noi ti dobbiamo dare una casa. Ti metti a lavorare e vai a affittare una casa. Qual è il problema? Per sei mesi, quelle sono le leggi. Per sei mesi o quant'è, noi ti aiutiamo, va bene, già troppo ti aiutiamo. Dopo ti vai a cercare una casa come tutti. Mi aspettavo una casa bella. Ho lasciato l'ISIS e ho trovato l'ISIS. Ma dov'è l'ISIS qua, imbecille? Vai a occupare le piazze. Ma che cazzo vai a occupare? Vai a lavorare e non rompere i coglioni, no? Va spiegata dai, su, Carlo da Roma, attento. Dai, ma lascia perdere il pubblico. No, ma non c'è Carlo, non c'è sì, Carlo. Sì, c'è Carlo da Roma. Fammi sentire Carlo da Roma. Inutile. Fammi sentire Carlo. Perché Giuseppe. Dimmi Carlo, dimmi. Ecco, no, buonasera, io stavo d'accordo con Parenzo sul discorso dei quattro immigrati che hanno stuprato quella polacca. In che senso? Beh, cercavano un po' di felicità, se ne sono accontentati solo di una, dai. Tu dici, perciò, tu dici. Cercano la felicità, come dice quel cornuto De Parenzo. È l'applicazione. Quella viene qui in ferie col marito, bella figa, te ne vai adesso, bella figa, spiaggia. Che c'entra? Vabbè, a Boldrini dovrebbe starci a quel no, posto no, di quella. No, amico mio, no, su questo non passi, Su questo non passi. Che vuol dire che dovrebbe stare la Boldrini al posto di quella? Ti stai augurando lo stupro nei confronti della Boldrini? Ma perché non ci mandava Parenzo a luna di notte, a mezzanotte, a farsi una bella passeggiata? Ma che c'entra, Carlo? Cosa c'entra? E poi sotto le stelle, e poi ti arrivano quattro figli della mignotta e te superano la ragazza. E allora? Sono dei criminali. Che Parenzo è a favore dei criminali? No, non è a favore dei criminali, è a favore di questi che vengono, vanno a casa, dateci casa, di questi è a favore, Parenzo, capito? Capito? La cittadinanza onoraria, il papà dà l'arresto domiciliare, Porello, dammogli la casa pure a quello, no? Ma quella va a fare una passeggiata, sono. Ma come fa a fare una passeggiata tranquilla? Ma che esempi sono? Ma come fa? Perché in Italia sono diritto cornuto. Forse c'è tu vuoi a fare la passeggiata e poi vedi quello che te fanno. Ma non succede. La maggior parte delle volte. Strozzo, stai zitto, non parlare, non da sempre ragione a sti quattro marocchini. Stai zitto, stai zitto. Non lo so. Parezzo, uomo del secchio, uomo del secchio pieno di merda. Stai zitto, come parlare. Scusa, accettare la. È la bicicletta, tutta bella che c'è allora, da bicicletta. Abbiamo quello, ci rivuole, ci rivuole quello, ci rivuole. Evviva Alessandro. Alessandro, a me Valenzi, che io lavoro per casa, che ne state cazzo. Io però fatevi anche una bella iniezione. Ma perché, non ti viene una cosa? Io dico solo una cosa. Ma perché, non ti vedo ogni giorno, capisci? Ma che succede? Carlo, che lavoro fai, Carlo? Che lavoro fai? E quale? Non mi ricordo. Che lavoro fai? Ti ricordi più cazzo, vieni dai ferie. Allora, che lavoro fai? Che lavoro fai? È camionista. Camionista. Com'è che fa? Faccetta nera. Bella visita. Chiamate la Digos. Chiamate la Digos. Perché prima ci stanno calciatori, pugili, tassinari, ci stiamo pure noi, pure i camionisti ci stanno la sera. Ciao. Sì. Amico, è bello. Te le palle non ce l'hai, pareti, sta zitto. Sta facendo fare brutta figura a un'intera categoria di onesti lavoratori, cioè i camionisti. È una figura pessima, poveretto. È una persona di cui vergognarsi, questo qui che ha chiamato. Il segnale orario vi è offerto da il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta Zanzara. Donato, che c'è di nuovo? Hai chiamato dicendo sono incazzato nero, con che cosa? Le solite cose, l'islamizzazione? C'è qualcosa di nuovo? Boeri, gli immigrati, che ne so, Boeri, qualche cosa di nuovo, che ne so? Boeri da manettare, Boeri da manettare, quando dicono che viviamo con le pensioni degli immigrati, è da manettare, perché con 5 milioni di italiani disoccupati, ragazzi disoccupati, allora sbacciamo fuori tutti questi immigrati, ma fuori con le spranghe, fuori dai coglioni con la sinistra davanti però, e poi assumiamo tutti gli italiani disoccupati, questo è uno Stato ragazzi, questo è uno Stato, questo... Non dar da mangiare a milioni e milioni di migranti, sfaccendati, muscolati, malati di AIDS, che non sanno nemmeno che cazzo è l'Italia, ma hanno capito che c'è la sinistra criminale che li fa entrare, la sinistra criminale! Cosa sta dicendo quel mostro? Caro Parenzo, caro Parenzo, che tempi, che ma tempi quelli. Risentire alcune di queste voci, no? Che appartengono quasi al paleolitico, al mesozoico, cioè appartengono a un'epoca, mi sembra, vecchia, invece è proprio l'altro ieri che è accaduto, che è una cosa terribile. Allora, il Fusaro Show, la supercazzola fusariana, il filosofo del nulla, il filosofo marxista. No, via col Fusaro Show, vai, la leva obbligatoria, vai. Abbiamo rimosso la leva obbligatoria. Meno male. Ma meno male fino a un certo L'Erasmus punto. Non è più utile, scusi. L'Erasmus serve a imporre, è la nuova naia del nuovo millennio, serve a imporre alle nuove generazioni una postura cosmopolita che li prepari all'erranza diasporica globale, priva di radicamento e di... Aspetta un attimo. La russa ha capito lei che ha fatto il liceo classico, sì, mi pare. Sì, sì, ho è un italiano. Cortesia! Ho capito. No, ma qual era la frase? Scusami, Davide. La postura, cioè l'Erasmus serve, secondo Fusaro, alla postura ai giovani per avere una postura cosmopolita che li prepara all'erranza, dove c'è l'erranza, cioè al fatto di errare. Ragazzi, sì, di miserale, all'erranza mondiale, bellissima, una cosa molto bella. Un'altra supercazzola è questa, i signori della mondializzazione che usano gli esseri viventi, sentite. Quelli che io chiamo i signori della mondializzazione, i quali potranno utilizzare questi esseri umani come carne da macello per abbassare i costi della forza lavoro, per sfruttarli illimitatamente in forme disumane come il caporalato e di più per creare lotte orizzontali fra gli ultimi, giacché i migranti e gli autoctoni, anziché solidarizzare contro chi li sfrutta, faranno la guerra fra loro. le lotte orizzontali tra gli ultimi. In realtà questa era meno supercazzola di altre. Sì. Allora, Franco da Pisa, vai Franco. Sono qua, volevo dire semplicemente. Sì, dimmi. Ma possiamo smetterla di far parlare questi biforchi o trifolchi che offendono e basta? Ma di chi stai parlando, scusami? Di tutti Bravo. Quelli che ce l'hanno in maniera Bravo. Smodata con gli immigrati, con la povera Bravo. Boldrini, eccetera, eccetera. Stai parlando di Carlo da Roma? Sì, uno è lui, ma ce ne sono tanti come lui. Ma perché non consenti anche agli altri, anche a quelli che hanno delle opinioni un po' più, come dire, colorite, e in alcuni casi anche violente, di esprimersi? Non ho capito, che devono essere tutti perfettini come te? No, io non sono perfettino, se mi posso anch'io scalmanare oltre maniera, però mi sembra esagerato partecipare per dare delle notizie in quel modo. Di cosa stiamo parlando? Notizie non ce n'erano, naturalmente. Contenuto informativo zero. Non ho capito la tua proposta, scusami Franco. La quale sarebbe? Era sì. semplicemente quella di non far parlare persone sì. che offendono. La proposta viene respinta e viene cassata e dunque torna al mittente, diciamo. Questa proposta torna al mittente con una X sopra, con una X sopra. Chiaro? Ti ringrazio, mi metterò in contatto un'altra volta. Ciao, bene, Gabriele dalla provincia di Forlì, vai Gabriele. Comunque, vai Gabriele, dimmi. Oh, ciao Cruciani, ascolta, io sono qui della zona Rimini, allora? Niente, volevo dire, innanzitutto, prima di tutto, non bisogna andare alla battigia, perché cioè, c'è gente assurda, succedeva anche tanti anni fa. Sì, quindi... ma non è che l'idea è quella di che non si può andare in spiaggia, cioè, certo, non bisogna stuprare, certo. Punto, cioè, non è che uno non può andare in spiaggia, non può andare in spiaggia alle 9 di sera. Poi certo, quelli erano polacchi, che cazzo ne sanno che sulle spiagge di Rimini uno può essere anche stuprato alle 10 di sera, scusami. Ma in tutte le spiagge, però bisogna Ma no, ma che in tutte le spiagge? Ma no, ma non che c'è della gente assurda. Ma ragazzi, ma non è vero che in tutte le spiagge uno può essere stuprato, ma non diciamo cazzate, dai, su, forza. Vabbè, ok, però bisogna stare attenti. Comunque, io dico una bella, cosa. Bella cazzata. Cioè, tu chiami per dire che bisogna stare attenti, ma io ti mando a fare in culo. Cioè, meno male, tu chiami e dici bisogna stare attenti, ma vaffanculo, perché chiami noi? Attenti, ma chiami, cioè, ma chiama coglione, qualche altra trasmissione, no, per dire che bisogna stare attenti. Ma che frase è? Cioè, tu chiami qui, fai la aspetti di parlare e poi mi dici: ah, sai, quando uno va in spiaggia bisogna stare attenti. Ma vai a fare in culo. Dai. Comunque, io dico una cosa: sti cazzi di muslim, no? Vengono qui, non mangiano sto cazzo di maiale tutto e poi fanno i casini così. Ma che c'entra questo? Che ma c'entra? Fanno gli ipocriti, quella è ipocrisia. Ma questo è un coglione. Ma cosa c'entra? Gabriele, ma lei non deve bere così tanto. No, purtroppo non ha bevuto, questo è il problema. Non ha bevuto, non aveva nulla da dire, cioè banalità e cazzate, ma non ha, il problema è che non ha bevuto. La cosa grave è che non ha bevuto. Avesse bevuto, sarebbe Tu dici è lucido così. Beh, questo è il punto. Alessio da Pescara, avanti Alessio. Certo, è lucido così. Alessio. Ciao Cruciani. Sì, Alessio, che sei? Il camionista di Pescara? Sì, il camionista, però mi inizia a essere offensivo camionista quando chiama uno tipo quello di prima. Ma perché? Adesso che c'hai contro carico? No, io non c'ho niente, la categoria che viene offesa perché chiamano Bravo. Soltanto questi. Ma non cioè è vero, hai chiamato tu che loro. Sei uno della maggioranza silenziosa, dei camionisti della maggioranza sono silenziosa. I camionisti sono pieni di maggioranza silenziosa, cioè è la categoria che ha le presenze più forti nella maggioranza. Non è vero, non è vero, non è vero. Aspetta quella, un attimo. Sì, adesso mi ci metti contro, ma io non voglio riparlare con no, lui. Devi parlare con Carlo, devi parlare con Carlo. Ma no, adesso. Ma non mi faccio insultare, non gli rispondo, te lo dico. Sì, aspetta, Alessio, aspetta un attimo. No, perché, che vuol dire non gli rispondi? Che gli dico? Che gli devo dire? C'è uno che canta Faccetta Nera alla radio, che fa radio fascio, radio qualunquismo, radio Viva i Negrieri, io non ci posso parlare. Ma perché non ci vuoi parlare? Parlaci, fai il democratico, parlaci. Non mi serve parlare, non mi ci voglio abbassare, non è fate utile, lo stesso capito? Mestiere, fate lo stesso mestiere tutti e due. Perché non fai... Carlo? Dimmi Giuseppe. Alessio dice che non hai diritto di parlare. Vabbè, Alessio non c'ha manche le palle, non è come Cruciano. Poi dice che non c'è che dice siamo tutti uguali. No, non potremmo essere tutti uguali. Dai. Ma scusa, non ho capito. Alessio, cosa hai da criticare? Uno può criticare tutto, perché non dovrebbe parlare Carlo? Scusa, spiegami. Diavolo vuole, non è quello il punto, è che però uno stato civile o comunque una radio decente non gli può permettere di sbattere ai 420 quello che è vietato. cioè il fascismo non deve essere riproposto in nessuna maniera. Ma adesso mi fai la pipa su coso? No, ma che sei? Non te lo devo spiegare io come mi fai la pipa che mi ha fatto qualcuno, qualche non so chi è questo Cavalli, che mestiere fa questo Giulio Cavalli, Parenzo? Che mestiere fa Giulio Cavalli? Che cos'è? Che ha fatto di mestiere? Giulio Cavalli è un attore, Giulio Cavalli è un attore, vabbè, non lo sapevo. Non lo sapevo, è uno che mi ha fatto una pipa, una sua lezioncina sull'antifascismo, sul attore, fascismo, stato, sì, l'antifascismo bravo, deve essere attore, proclamato, più, non puoi stato, fare parlare i fascisti. Che c'entra questo? Più, ma che c'entra? È un bravissimo attore, per essere un amico, è un bravissimo e famoso attore. Ma sì, va bene, è stato minacciato dalla mafia. Mi fa a me lezioni di democrazia. Lui non vuole far parlare la gente, anche vuole dare a me lezioni di democrazia. Ma dai, su a me lezioni di democrazia. Ma non lo so, ma che me ne frega se è una brava persona? Molto per bene. Ma chi se ne frega? È un grande attore. Ma me ne fotto, È uno che vuole fare con me il democratico e mi vuole insegnare che cos'è la democrazia, ma con me casca male, perché io sono molto più avanti di lui da questo punto di vista, perché faccio parlare anche quelli che mi fanno schifo. È chiaro? Una persona molto per ma bene. Ma me ne fotto se è per bene. Ma che me ne frega? Ma chi se ne frega se è antifascista? Me ne fotto. È un vero antifascista, Alessio. Un sincero democratico. Vabbè, pazienza. No, non mi pare, non mi pare. Alessio, che cosa hai da rimproverare a Carlo? Non ho capito. No, io a Carlo no, veramente non ho niente da rimproverare. Cioè, ti fa schifo, no, Carlo? Non mi fa schifo, Carlo. A me mi fa schifo il pensiero fascista nel 2017. E vabbè, pazienza, ti fa schifo. Sta riproponendo in maniera ancora più pericolosa di quello che è stato. Perché ho delle accontitudini di mio nonno. E vabbè, mi dispiace, ma nonno, delle torture di quella gente. Aspetta, dico a me, Alessio, dico con me solo una cosa. Dico con me, fascetta nera, bella Virginia. Carlo, capito? Non sono qui per litigare con te, non ne ho voglia, capito? Non c'è da litigare, qui bisogna farla finita con sto buonismo, bisogna sempre prendere parte a sti cazzo di quattro negri, zozzi, che fanno quello che gli pare, capisci? Quello è il discorso. Tu praticamente hai imparato questo termine buonista, come altri milioni di mentecatti, hai imparato questo vocabolo buonista, che darebbe la pulita, capito? Darebbe la pulita. Vabbè, ma questo non va bene, però tu non rispondere neanche tu, non rispondere a niente. Io quando fossi in te, ogni telefonata di questo stereotipo di persone, starei zitto, non replicherei. Falli parlare e non replicare neanche. Neanche. È arrivato no. L'altro, che dobbiamo chiudere battenti, non ho capito, dobbiamo chiudere baracca, Alessio. No, vabbè, dai, guarda, Cruciani, tu lo sai benissimo. Dimmi. Che senza David, tu questa trasmissione la chiudi domani. Ma cosa vuol dire? Ma cosa questo vuol dire? Ma cosa questo vuol dire, Alessio? Cosa c'entra? No, qui, perché Alessio, tu sei estremamente intelligente, Cruciani. Sì, però Alessio, però, lo sai che tu, Alessio, con questa, ma chi se ne frega? Io do parola a tutti, anche a te, anche a te. Io do parola a tutti, anche ai fascisti, chiaro? Ai fascisti, bene, ai comunisti, ai fascisti, ai comunisti, non mi interessa. Vedi che quando dicono le cazzate sulla Boldrini, che adesso inizia. Ma quello che c'entra, quella è la violenza. Quella è la violenza, è un'altra cosa. La violenza è un'altra cosa. Il fascismo non è violenza, il fascismo è solo violenza. È sempre stato solo violenza. Perché il comunismo, che cos'è? Scusa. No, dai, Cruciani, cosa è stato? Il fascismo è sempre stato solo violenza. Alessio, per favore, dai, su. Comunismo, vabbè, ma io mica ho detto che sono comunista. Ma non ho detto questo, dai. Guarda, Cruciani, basta questo binomio. Di una parola a Carlo. Come lo dici? Io ti posso dire soltanto che tantissimi stranieri fanno il nostro mestiere e fanno gli stessi sacrifici e hanno gli stessi diritti e doveri che abbiamo noi. Se qualcuno di questi stranieri si comporta male, è un delinquente, non è che è un negro delinquente. Ma secondo te cos'è Carlo? Come lo definisci Carlo tu, Alessio? Vabbè, Cruciani, se mi vuoi far litigare con come Carlo lo definisci? Come lo definisci? Non è serata, se mi vuoi far litigare con Galino non devo litigare con Carlo. Come lo definisci Carlo? È vietato dalla legge. Mio nonno mi ha Carlo, come lo definisci adesso? Carlo, come lo definisci? Un ragazzo che è un ragazzo senza palle, bisogna farsi che fa un po' le ossa e basta, perché se ancora prende le parti a sti stranieri, a sti quattro stranieri che dice che ci sono le persone giuste e regolari, ma per carità, ben venga, capito? Ma il 90% sono tutti gran figli senza della mignotta. Senza palle, vabbè, ciao amico mio. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara. Ciro, Ciro, ciao Ciro. Senti, senti chi c'è alla radio. Alla radio c'è papà tuo, Ciro, Ciro, di papà David, ciao. A questo gioco al massacro io non ci sto. Parenzo, io Butungu lo metterei ai domiciliari a casa tua. Ti metterà di sicuro il sorriso, tanto è abituato a ingroppare i trans. Allora, questo qua è il famoso cacciatore. Che ci sia no, il solito questo... linguaggio netto, mi pare. No, ma questo qua è il famoso cacciatore di Rom, Parenzo, che è un personaggio incredibile. Pare sia anche un legionario, un ex legionario. Un legionario? Sì, un ex legionario. Si picca di della essere. Della legione straniera? Sì, della legione straniera. Già è intervenuto un paio di volte in una trasmissione di Nicoletti. Figuriamoci. Questo ottimo signore, Nicoletti. Questo signore. Questo cacciatore di Rom sostiene di andare a caccia di Rom ogni sera. Cioè, spesso, no? Ogni sera di andare a caccia di Rom. Fosse ma vero. Ma l'hanno arrestato adesso, immagino. Ma no, ma è incredibile. Un ex legionario che ha sposato una vietnamita, perché le ha conosciuta in Vietnam, non so dove, se in Vietnam o in Laos, non so dove. E poi è tornato in Italia, a Messina, ci ascolta ogni sera fisso, e sostiene di essere un cacciatore di Rom. Beh, perché sarà ai domiciliari, quindi ci ascolta, niente da fare, quindi ci ascolta. Senti, senti, senti. Cruciani e Parenzo, brutti segaioli di merda, vi siete fatti 2 mesi di vacanze come al solito e noi qui a combattere contro sporchi negri clandestini, musulmani violentatori in palandrana e zingheri puzzozzi di De Giuseppe, ma li abbiamo corcati tutti di mazzate, il cacciatore non perdona. Tu capito qua, cioè hai capito qual è la situazione, no? Hai capito qual è? Io ho capito che la situazione è molto grave. Molto grave per le persone che gli stanno intorno a questo qua, per lui è... Ma è un personaggio, un personaggio da esplorare questo. Non è un malato. Cominciamo a usare le parole per quel che va. È un malato. Allora, io vorrei che gli ascoltatori mi aiutassero, se vogliono, altrimenti me ne sbatti i coglioni, mi aiutassero a decifrare da dove viene questa parte di libro che mi hanno mandato. Cioè mi hanno mandato di un libro? Sì, di un libro, di un libro. Senti, interessante, finalmente la cultura, no, direi te, no? Finalmente esatto, la cultura. Esattamente. Mi hanno mandato una parte Cosa ha vinto, lo strega o il cappello? No, non lo so, c'è scritto solamente è una la fotocopia di una di metà pagina di un libro. Sì. In altro c'è scritto parte terza, pagina 241. Vuoi sapere se Lisbeth mi infilava un dito nel culo? Eccola. Non appena ne aveva l'occasione, ma con prudenza. Dottore tornata al volo. Aspetta, ripeto, non mi interrompere. Dottore sua Filippina tornata aspetta, al volo. Vuoi sapere se Lisbeth mi infilava un dito nel culo? Non appena ne aveva l'occasione, ma con prudenza. Come il 60% degli uomini norvegesi della mia età soffro di emorroidi. Per questo Lisbeth non si faceva mai crescere le unghie. L'ho capito tu, io che cos'è. E tu fai postillioning, Harry? Il caffè gli andò. Aspetta, il caffè gli andò di traverso. Te lo fai fare o lo fai? Chiese Willy. Lui scosse il capo. Dovresti, Harry, specie perché sei un uomo. Lasciarsi penetrare è fondamentale. Se lo farai, scoprirai che provoca, eccetera, eccetera. Che cos'è secondo te? No, è il grande Stieg Larsson. Ma sei sicuro? No, no, perché tu sicuro? Perché tu pensi che sia Lisbeth Salander? No, bravo. No, no, ma secondo me no, ma non ha mai parlato secondo di questo. Secondo me no, no, Stieg ragazzi, Larsson. Io ve l'ho letta la cosa. Dovete ci sono dirmi delle scene pop molto non lo so, parte terza 241. Può darsi, vuoi sapere se Lisbeth mi infilava un dito nel culo non appena ne aveva l'occasione. Questo è l'incipit. La conclusione è dovresti, Harry, perché sei un uomo. Vabbè. Lasciarsi penetrare è fondamentale. Questo è, abbiamo dire, capito il contorno. Claudio dalla Spezia, vai. Sì, pronto? Dimmi, dimmi caro, dimmi. No, niente, volevo solo commentare niente, le cazzo. Parole di Gino Strada che Gino ha Strada, parlato sì. di Minniti definendolo una vergogna, sì, una vergogna. Una vergogna. Definizione da come si indigna Cruciani. Si indigna così Cruciani. No, io non è che mi indigno, ma che me ne frega. Si indigna così, per questa cosa qua. Ragazzi, la definizione di sbirro, se tu dai a Minniti dispregiativa, aspetta un attimo, Claudio, fermo un attimo. Allora, non è che ha detto solamente sbirro, ha detto praticamente che ha portato alla morte un sacco di... Io fossi Minniti lo querelerei. Cioè, che cosa ha detto? Ha detto che Minniti se ne fotte della morte di quelli che partono dalla Libia e li ha mandati dagli aguzzini. Questo ha detto. Cioè, non è esattamente questo. Te lo faccio risentire. Ha posto un problema riguardo alle prigioni libiche. Ha detto Minniti se ne fotte dei diritti umani, ha mandato a morte migliaia di persone. L'ho detto esplicitamente. D'altra parte è uno sbirro. E questo è, cioè questo ha detto, ragazzi, cioè è o non è una vergogna una cosa? Non mi sto indignando, che me ne frega di indignazione. Io non sono d'accordo, però se devo analizzare nel merito non è d'accordo, lui non è d'accordo, lui non è d'accordo. Dissente, sì. Vabbè, allora Claudio, allora? E poi oltretutto Luigi ha detto praticamente che il re è nudo da quando Leone e Gino sono... Senti, ma da dove stai parlando tu? Da dove stai parlando? Dalla Spezia. Sì, ma da dove, cazzo, che non si sente? Da dove? Allora, Roberto, dai, Roberto da Milano, dai, forza, ragazzi. Roberto. Oh. Dimmi, Roberto, dimmi. Sì, ciao Giuseppe, io faccio parte della maggioranza silenziosa. Molto bene, si capisce già dal tono. Perfetto. Ma premetto che chi commette uno stupro, sia bianco o fosso nero, deve pagare bene. Ma ragazzi, ma non mi dite banalità, però. Roberto, si capisce che sei della maggioranza silenziosa, dai. Ascolta, io mi dissocio da alcune telefonate. Ma che non me ne frega? Ma non me ne frega. Sei camionista tu? Sei camionista? Io sono un artista. È differente dal camionista. Il camionista che me ne frega a me se ti dissoci? Se ti dissoci, che ce ne frega a me? Perché ti dovresti dissociare? Perché? Ascolta un attimo. Sei camionista, sei della categoria. Io sono un autista. Ti dissoci da Carlo, e chi se ne frega? Uno ti può rispondere così, e chi se ne frega? Mi permetti di cantare Faccetta Nera, uno alla radio. È da mo' che l'abbiamo cantato. È da mo' che è un ospite qui. Insomma. È un imbecille, ecco, volevo solamente dire che non lo cantare. No, ascolta un attimo, però vorrei che anche questi personaggi, ascolta un attimo, vorrei che questi personaggi parlassero anche di questa storiaccia tutta italiana calabro meridionale, di quella ragazzina che per 3 anni è stata violentata da ragazzi di famiglia. Ma che c'entra? Sono cose diverse. Ma c'entra perché poi sui social tu vedi caccia allo straniero, slavo, negro, come cavolo vuol chiamare, se commette qualcosa. Sì. Aspetta, ciao, famiglia, Roberto. Ciao, Giuseppe. Ciao. Quando non ti conviene, non ti conviene. Non ti conviene, ti saluto. Non riesci ad articolare, vai. La zanzara. Secondo alcuni è John Nesbo, il libro è John Nesbo, La stella del diavolo. La stella del diavolo. Un altro lui dice John Nesbo, La stella del diavolo. Beh, si saprà però. Altri dicono Philip Roth, pastorale americana, vabbè. Ah, potrebbe anche, sì, bravo, potrebbe anche essere. No, ma se metti il contenuto su Google non esce niente, per quello. Altrimenti era facile. Grande ritorno alla zanzara, fermi tutti, cambiamo un po' argomento. Antonio Razzi, Antonio. Buonasera. Come andiamo? Naturalmente a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Beh, Radio 24, della zanzara intanto, no? Di Radio 24. Radio 24, beh, è chiaro. Limitiamoci alla zanzara. Io non ho capito ancora una cosa, caro Antonio. Noi siamo stati insieme fino a pochi giorni fa a Pescara, eccetera. Non mi avevi detto che saresti partito per... Poi c'è un dubbio, sì. Mi sembra. No? È ancora in dubbio la tua partenza per la Corea del Nord. Mi sembra di capire. C'è un colpo di scena qui. Cioè, dopo tu hai detto, io farò il mediatore nella vicenda tra l'America o l'Italia e la Corea, per la tua conoscenza, i rapporti con la Corea. E parto sicuramente il 20 di settembre. Poi adesso mi hai rivelato che c'è un dubbio sulla tua partenza. Qual è il dubbio? Ma il dubbio è che siccome arriva uno dei capi di Pyongyang e viene a trovarmi, che sta facendo un giro in Europa, e prima che prenda l'aereo viene nel mio ufficio a trovarmi. Cioè, non ho capito, uno dei capi di Pyongyang, del Partito Comunista della Corea, quelli che adesso stanno tirando quelli che stanno facendo gli esperimenti nucleari, le bombe al Giapone. Quelli che contano. Adesso, viene a fare un giro in Europa e viene a trovare anche te, cioè viene a un appuntamento con te. Siccome domani sera vado al Brindisi per il nuovo ambasciatore che è entrato a... Capito, Parenzo, perché non ci vai pure tu? Non ho capito, no, ambasciatore della Corea del Nord in Italia. Ma ti pare che vada al Brindisi di un dittatore? Ma che stiamo scherzando? Come ma se... guarda che quelli... ma guarda, David, quelli ti vogliono bene. Ti vogliono bene. Ti vogliono bene. I coreani del Nord ti vogliono bene. Ma David. Io sto con la Corea del Sud tutta la vita, assolutamente. Vabbè, sempre, allora, Anto, viene questo dignitario, questo alto dignitario dalla Corea del Nord, no? Allora, è l'emissario di un dittatore, diciamolo no, chiaramente, allora, è l'emissario, un dittatore sanguinario per giunta. Scusa Davide, io gli chiederò, che gli io vengo lì, posso, con chi devo incontrare, perché io voglio esporre il mio disappunto per quello che è stato facendo. Disappunto, tu vuoi andare in Corea a esprimere il disappunto ai coreani, ma quelli ti cacciano subito dopo due secondi, ti cacciano, amico mio. No, ma io appunto ti mettono in galera, ti mettono. Come si suol dire, con quella bocca si può dire quel che vuole, ti ricorda la pubblicità. Io posso parlare, perché allora a me mi ascolta, anche se sbaglio. Ma insomma, parti o non parti? Parti o non parti? Tanto quelli non lo capiscono l'italiano, che c'entra, ma parti o non parti? Non ho capito. No, io in base agli incontri che devo fare. Ah, ancora in dubbio, no, la partenza è ancora in dubbio. Scusa, se vado lì solo per farmi una birra a Pyongyang e poi devo ritornare, ci devo pagare di tasca mia, devo spendere 5.000 euro, ma che cazzo me lo fa fare? Ma quanto ti costa sto viaggio? Quanto ti costa sto viaggio in Corea di solito? Circa 5.000 euro. Cioè, di tasca tua paghi? Io. Paghi tu, di tasca tua. A meno che ti frega, paga, no? Tanto ormai i soldi ce li hai, il mutuo l'hai estinto. A meno che non si offre volontario l'amico Davide che me la paga lui. No, ma quello non credo. Quello non credo proprio. Guarda, credo. Ma scusa, perché non ti fai mandare da Alfano come inviato del ministro degli esteri Alfano? Tanto ormai si è riavvicinato a Berlusconi, forse. Bravo, bravo. Se il ministro degli esteri Alfano mi delega e mi dice, guarda, andò. Visti che tu conosci bene queste qua, vai a dire questo, è chiaro, e io gli dico dunque, la notizia è questa, caro ministro degli esteri Alfano, dammi una delega per andare a parlare con i capi della Corea del Nord, ma giusto? Ma qui non te lo danno nessuno perché c'hanno tutto paura. Scusa, ma Alfano chi è più conosciuto? Lo conoscono in Corea Alfano? No, non lo conoscono secondo me. No, non lo sanno. Cioè in Corea del Nord Alfano non lo conoscono. Non lo sanno chi è. No, non lo sanno. Devono vedere sui libri, su internet, vedranno chi è il ministro degli esteri, e così lo conosco. No? È più conosciuto Razi, è più conosciuto Razi. Cominciamo però a dire che quella lì è una dittatura sanguinaria. Quello è un pazzo, un nano pazzo. È un nano pazzo, diciamolo. A dire così. È Ciccio pazzo, è Ciccio questo, Kim. Questo non credo, questo non credo. Scusa, non io voglio capire una cosa. Allora, tu vuoi un mandato da Alfano, ma sei più popolare tu o Alfano in Corea? Tu, naturalmente, no? In Corea io, poi in altri stati magari è Alfano. Cioè, però in Corea Alfano... Lui è il ministro degli esteri, scusa. Ho capito, ma Alfano non lo conoscono in Corea, mentre tu sei popolare in Corea, diciamo. Per strada ti riconoscono? Ma tutti. Cioè tutte le persone ti riconoscono per strada? Ma sì, perché l'hanno visto sui giornali, l'hanno visto sulle televisioni. E che dicono quando ti incrociano per strada a Pyongyang? Che dice la gente? L'amico italiano. E siccome come lo chiamate voi, il dittatore Kim Jong-un, quando io gli ho detto e mi sono complimentato con lui perché manda i calciatori coreani in Italia a imparare la tecnica del calcio italiano, ma che c'entra questo? La musica e la nostra lingua e cultura italiana, ha detto, poi questo è un grande italiano. Kim ha detto Razzi è un grande italiano. Beh, questo è importante. Allora, Ciccio Kim, cioè quello là con i capelli strani, Parenzo, no? Il dittatore della Corea del Nord, ha detto Razzi è un grande italiano. Beh, ragazzi, l'ha detto perché? No, il fatto che l'abbia detto conferma che è pazzo. Quindi, insomma, voglio dire. Scusami, però, Anto, io voglio capire una cosa. Ma tu sei quello che ha portato questo calciatore che adesso gioca nel Perugia, no? Questo anno, lo sappiamo. Ma che c'è del calcio? Quello sta minaccia nel mondo e parliamo del calcio. È Luis, un portoghese. Vabbè, chi se ne frega adesso? Quello che però io l'ho portato, perché tanto di me non entrava. Allora, questo è chiaro. Questo è chiaro. Allora, porto Davide e porto Giuseppe. Sì. Quelle, voi entrate perché vi venite con me. Sì, ma io voglio. Che chiarissima questa cosa. Io voglio capire una cosa, ma perché non. La cosa importante sarebbe la nazionale di calcio, che adesso non se la passa molto bene, di Ventura, dovrebbe fare un'amichevole a Pyongyang, Parenzo. Italia. Che dici? Ma come si fa a stare quello con un dittatore? A legittimare un dittatore come quello? Se la nazionale di Ventura va a Pyongyang, ci sarà 200.000 spettatori e sicuramente sarà la festa nazionale della Corea. Dunque, tu stai dicendo perché per la pace l'italiano e ama il calcio italiano. Ah, benissimo, tu stai dicendo per la pace un contributo lo potrebbe dare pure la nazionale italiana con un amichevole Italia-Corea del Nord, giusto? Bravo. Allora, sì al calcio. Allora, rivolgiti a Attavecchio, presidente della Federcalcio, lo conosci, da quello con gli occhiali, quello che ha parlato delle banane quella volta. Caro Attavecchio, organizza un amichevole, se vuoi la pace, organizza un amichevole, vai, vai. E quello può contribuire benissimo, anche con la musica. Vabbè, la musica. Tutto. Però io voglio capire una cosa. Io lo devo dire all'amico Cristian Malgioglio, lo devo far venire. Che c'entra Malgioglio? Scusa, no. Lui è musicista, allora lo facciamo cantare lì a Pyongyang. Sì, ma che c'entra Malgioglio, Cristiano? Cristiano, poi non Cristian Malgioglio, Cristiano. Cristiano, io lo chiamo Cristian perché. Perché Cristiano? Una cosa è Cristiano, una volta Cristian. Ma lui sì che è Cristiano. Ma io non ho capito, ma lui, anche lui vuole venire in Corea del Nord, pure Malgioglio? Vuole fare un concerto a Pyongyang. Ma chi te l'ha detto lui? Te l'ha detto lui, te l'ha detto? Me l'ha detto lui, io vengo volentieri con te. Cioè, a adesso ci manca, ma ci manca pure che Malgioglio in Corea del Nord, amico. Ma ragazzi, sanno chi è il signor Malgioglio in Corea del Nord? La zia Malgioglia. Scusa, ma ci sta qualche. Ci sta ha scritto le più belle canzoni di Ma ci sta qualche gay lì? C'è qualche gay lì a Pyongyang? No, così per capire, così almeno Malgioglio si può trovare bene, o no? Penso di sì, tutto mondo. Io paese. Però capito, tu se vai in Corea non hai paura di questa storia qua delle bombe? No, assolutamente. Io non assolutamente, perché io se devo domare qualche bestia, sì. Loro non sono bestie. Deve domare una bestia feroce, non è che vado a domare un coniglio o una papera o una gallina. Non ho capito la metafora, allora. Non ho capito, cioè tu vuoi dire, se tu vuoi domare. Io preferisco l'avversario un leone, una tigre, così magari ho capito. Lo devo domare e vedo se riesco con lo sguardo o con qualche mazzata, nel senso, ma non magari con un coniglio, cioè, con una preferisci papera. Preferisci andare a risolvere questioni serie, non andare a fare le cazzate qui, no. bravo, siccome loro, ma se guarda, ma se dirvi questo, ragazzi, per l'unica guerra, per il bene del mondo, come io vado per il bene dell'umanità, per il bene del mondo, ma vado bene, a parlare adesso per risolvere il problema. Ma scusami, ho capito, ma le l'unica bombe... guerra che io vedo irrisolvibile è quella che ogni minuto fa razzi al congiuntivo e alla sintassi. Ma quello lo sappiamo, non è una novità questa guerra che la vedo proprio persa. Però io voglio dire una cosa, Antonio, ma le bombe ci sono alla fine in questa Corea del Nord? Ci sono o non ci sono? Sinceramente io non l'ho mai visto, però l'ho visto solo nella grande parata. Ah, nella grande parata, la grande parata militare. Particolare. Oh, dove c'avete le bombe, dove sono le riserve? Vado ma là. Le coreane come sono? Sono fighe o non sono fighe le coreane? Le coreane? Sì, donne? Le donne, sono sì. Bellissime. Le bombe ce l'hanno? Le bombe ce l'hanno loro o no? Almeno quelle le loro viste. Ce l'hanno pure le belle due bocce. Ah, ce l'hanno, sono ecco, ce l'hanno le bocce. Ce l'hanno, meno male. Ecco, la tua ricetta contro gli stupri, per evitare gli stupri, hai visto che c'è questa cosa qua, quale sarebbe secondo te? Calderoli dice che bisogna dare le pasticche. Ma guarda, lì stupri non ce ne stanno. No, assolutamente, quelle niente. Ah, in Corea niente. Le donne vivono tranquille. Ma qual è una caratteristica? Una caratteristica, oltre alla tranquillità che tu hai detto sempre, qual è? Mi sembra che tu hai detto una volta che la gente cammina sempre dritta. Sì, qual è? Camminano sempre. Ecco, forse sono magre per quel, camminano sempre, non sono mai ferme, sempre in movimento. Tutta gente veloce, non si ferma mai. È difficile trovare. Cioè, tutti dritti, camminano tutti dritti poi. Tutti, guarda, veramente non c'hanno mal di schiena, niente, camminano dritti, proprio tutti. Ma sputano per terra, sputano per terra, no? Ma io personalmente non ho mai visto, non si trova un mozzicone di sigaretta, non buttano sigarette, niente. Niente, tutto io pulito. Non so se si mangiano pure le sigarette, ma insomma, ruttano. Ruttano ogni tanto. È tutto bello pulito, puoi camminare tranquillo. Ruttano? Ruttano no? Ruttano? Beh, qualche cosa sempre lo faranno, sai, quando mangio, come si dice, quando mangia bene qualche rutto. Rutto lo fanno, i rutti li fanno. Al tempo dei maiali erano sospiri. Vabbè, caro Antonio, te saluto, va, poi mi dirai se vai o no, Ciao, te saluto, un abbraccio. Va bene, ciao, buonasera, ciao. Saluto. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. La Zanzara. Perché tu sei riccione, tu sei, guerrerami, merda, guerrerami, tu sei riccione, come Macron. Dai, denunciami, Parenzo, io te l'ho già detto un mese fa che io delle tue denunce mi sciacquo i coglioni, hai capito? Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Io riaprirei quelle che tu chiami le gabbie. Non si capisce perché poi chiami le gabbie. Cioè, vuoi, come al solito, identificare chiamatori. No, direi che chiamatori. I telefonisti. Sì, bravo. Come si diceva una volta. Cioè, bravo. Coloro che prendono il numero, un telefono qualsiasi, un cellulare, un numero fisso, eccetera, eccetera. Un telefono fisso. Compongono l'800 24 00 24. Come dei pazzi, tu li vuoi? No, peggio, animali, no. Miserabili animali. Ma perché? Certamente, perché? Hai detto, normale, non telefono, amico mio, a quell'ora. Ma c'è normale, torno a casa, infatti il paese è normale, quello che ascolta e ride di questi mostri che chiamano l'800 24. Non è vero che tutti quelli che chiamano sono dei mostri. Io ancora mi stupisco ogni giorno di come un gruppo importante come la Confindustria ci tolleri. Questo io lo dico contro il mio telefono, dovrei forse dirlo, ripeto. Cioè, tu vorresti... Anzi, non dico che ti auguri, ma ti stupisci di come ancora questa trasmissione non venga cancellata. Questa grande, straordinaria baracca, ho della gente che mi abbraccia. Ma quando quest'estate era la gente che mi abbracciava qui a farmi il culo ogni giorno a lavorare in onda. La gente che pensava che mi abbracciasse, quando torna lei a combattere? Quando e tu con la faccia sconvolta, dico, ma come mai lei così normale, esatto, eccetera, vuole far riaprire questo circo? Vabbè, esatto. Questo mi stupisce tutte le volte. Comunque, andiamo avanti, apriamo queste gabbie. Adriano, vai, Adriano, provincia di Brescia, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi Adriano, ecco, dimmi. Una cosa da dire sugli emigranti e sui quattro cretini che hanno violentato la polacca. Gli emigranti cretini, che non sono... cretini, io non li definirei solo cretini. Criminali direi. Sono animali, no? Animali. Vabbè. Allora. Sugli emigranti, ognuno a casa sua, chi non è a posto con i documenti, a casa sua subito, a sue spese. Sì. Via! Sì, va bene? Dice, ma che vuol dire va bene? Cioè, che vuol dire va bene? Io, cosa, va bene, in Svizzera, vedete, però, e l'ascoltatore ha in parte anche ragione, e ci sono degli stati dove non esiste questa cosa che tu arrivi, vieni accolto, controlliamo, eccetera. Hai i documenti in regola? Bene, altrimenti a casa! Altrimenti, bravo, prendi la barchetta a casa. Giuseppe, e devo dirti, io una volta per tutte, devo dirti la verità, caro Parenzo, a me di questa storia dei rifugiati politici non me ne frega un cazzo. Non me ne frega nulla. E al 99% del popolo italiano, della questione dei rifugiati, delle guerre, del fatto che bisogna per forza accogliere tutti quelli che vengono dalle guerre, è una truffa. Questa roba qui è una truffa colossale. Questa storia dei rifugiati è una truffa. È una truffa questa cosa dei rifugiati. Viene usata come una truffa, chiaro? I rifugiati da guerra sono pochissimi. Abominevole. Adriano, a lei interessa di quelli che hanno le guerre che vengono qui? No. Giuseppe, no. Luciani, io sono di 67 anni, sono bresciano puro sangue, sente, da generazioni, io faccio l'autista internazionale, a Chiasso una mattina alle 4 avevo la carta d'identità nuova, mi hanno fatto tornare indietro, ho dovuto chiamare il capitano della finanza italiana, dici quello stronzo lì non mi fa entrare perché dice che questa qua non è buona, era nuova, fatta il giorno prima. Vabbè, questo a che Chiasso cazzo? Questo... non ti fanno entrare con la carta d'identità nuova, e quel pigmeo lì vuol parlare di questo qua. Ma cosa me ne frega della di questo qui che dici di essere peraltro bresciano puro sangue? Ma tu vuoi bresciano puro sangue? Ma lei è un imbecille puro sangue, un imbecille patentato. Ma quale bresciano puro sangue? Ma che dici? Tu sei un maleducato. Ma no. Non ve ne faccio passare una quest'anno. Non ve ne passa una. Capito, che ha detto adesso questo Adriano? Sei un pigmeo e sei razzista. Ma sei un razzista perché accetti tutti quelli che fanno le cose male. Quei quattro lì adesso, gli emigranti che non sono a posto, via. Non ci credo, questo che l'abbiamo via. Detto, questo è il primo comandamento di Adriano, è via. Poi due. E i quattro animali, sì. Io sono un autista internazionale, non sono un'autista, che vuol dire animali di cortile che girano in Italia, io sono educato e non dico le parolacce, mi va bene la trasmissione, anche c'è. Tu dici le parolacce non me ne frega niente, se non mi dovesse andare bene non telefono, Cruciani mi va bene e porta il nome di mio povero padre anche, guarda te Giuseppe. E allora? Quei quattro lì che hanno violentato la polacca, picchiato il suo fidanzato e anche il culattone hanno fatto, è un trans quello là. Ma come parla? Cosa dice? Scusa, adesso ridiamo su una cosa seria. Questo qua, questa che hanno violentato, è un trans peruviano. Questo è quel culottone lì. Ma non è un culottone, è un trans all'uccello. Vabbè, sì, ma io non so, non mi so distinguere quella cosa lì. Ma che vuol dire? Non mi sei distinto. La quinta elementare. Ma che vuol dire? Lei è un troglodita. Lei è un se lo lasci dire. Lei è un troglodita. È una persona. È un troglodita. È un pigmeo del pensiero, lei. Vabbè, Adriano. Meo, vero? Il nome di e lui giustifica tutto. Vabbè, dai, allora, prego, Adriano, come fosse Zuckerberg, prego, Adriano. Cosa deve dire? Lì, fammi parlare, santo Dio, fammi parlare. Lei è un animale, si rende conto? No, un animale. È come dare la parola a una scimmia. In questo momento, scusate, Franco, la parola a una scimmia. Lei è un animale. Questo, ti lo dico, perché... Se no, vabbè, allora, dunque, animali o non... zitto un attimo, sì, Giuseppe, vabbè, voglio parlare con te. Io voglio parlare con te, Giuseppe, che sì, mi vabbè. Adriano, però questo. Io sto dicendo che questo qua è un trans, non è un culattone, capito? Quello il peruviano, trans peruviano che è stato violentato, una cosa grave è successa, no? Vabbè, un porco, un trans vuol dire che un uomo che va con gli uomini? Ma un trans è uno. Adesso, aspetta, cerchiamo di spiegare bene, Adriano. Dunque, il trans è uno che ha il pisello, Adriano, diciamo, è un uomo che si sente una donna, capito? Ma Dio, che robe! Ma ho capito, ma che robe lei! Lei è abominevole! Si rende il mondo, guarda che hai una capacità, cioè, di rappresentare il mondo al contrario, che è incredibile! Cioè, è abominevole sto signore che chiama. Guarda che io, ma non dirmi signora, io sono un uomo perfettamente normale, international driver. Ma io porto l'autotreno da Mosca a Barcellona, a Lisbona, ma cosa vuoi insegnarmi tu a me? Senza niente, con la cartina geografica e basta. Voglio parlare di quattro animali che hanno violentato la ragazzina polacca. No, ma anche il trans hanno violentato però. Insomma, violenza è violenza, se gli hanno fatto qualcosa anche per quello. Quei quattro lì, sì. Facciamo, poi ti dico io come l'abbiamo fatto noi, con un bastardo che si rubava il gasolio di notte con una pompa elettrica. A quei quattro lì, sai cosa bisogna fargli? Che bisogna le fare? Le sue quattro foto a tutti i caselli dell'autostrada e nei bagni dei maschi, sì, delle aree di servizio. Sì. Tu vedi che questi qua, senza mantenerli in carcere, vedi che razzistata prendono da noi. No, ma vedi no, che non noi ho capito, che bisogna fare? Che bisogna fare? Lasciarli nelle aree di servizio, che bisogna fare? No, le quattro foto di questi quattro poveri diavoli, sì, ai caselli dell'autostrada, sì, e nei bagni dei maschi alle aree di servizio, perché allora... Te ne do le prove che non la passano liscia senza dargli da mangiare in carcere e mettergli da farti star bene. Le quattro foto, ma che ce fai con le foto poi per coccarli di botte dopo, per così la gente va a casa di questi? Che cosa fai con le quattro foto? No, è che loro non hanno più quella strada da nessuna parte perché sanno che sono puntati, c'è anche la gente non normale anche tra la gente, cioè tu vorresti darli in pasto alla gente comune, questa è la realtà. Certo, cosa vuoi fare? L'hanno fatto loro, darli in pasto così in una piazza, in pubblica piazza, massacrateli. E il kamikaze, Giuseppe, mi senti? Il kamikaze, solo una cosa, una legge. Se trovi tramite il DNA, trovi chi è figlio di chi, la famiglia chi, decimargli la famiglia. Decima la famiglia al kamikaze, che vedrai che quanti pochi ce ne sarebbero. Dicono, tu hai ucciso la mia mamma, la mia sorella, il mio papà. Scusami, e hai ucciso la tua Adriano, mamma, il tuo papà. Adriano, possibile che tu sei un internet? In quale libro di diritto, scusi professore, in quale libro di diritto lei ha, come dire, espunto questa sua teoria giuridica? In quale libro di diritto? Io ho fatto la quinta elementare e non ho letto nessun libro. Dalle ingiustizie che c'è in Italia, ma dove sono i giudici? Quattro comunisti scemi. Scusami, scemi sono i giudici. International driver, è possibile che tu, con tutta questa esperienza tra Barcellona, Mosca, eccetera, non hai mai incontrato un trans in vita tua? Ma io li vedo lì, quelli che non sono né uomini né donne, ma al mio camion non si avvicinano perché si vede che è puzzo, c'è un odore strano, non si avvicinano, stai tranquillo te. Ma che senso, scusa, non l'ho capito. Che odore strano c'è? Che odore c'è? Io? C'è un odore che del bresciano e dell'uomo vero, del maschio. Beh, ma non guarda che vengono vicino quei scemi lì. Ma guarda che i trans sono appassionati di uomini veri, Non vedo che ne siano alla larga perché fanno brutta fine, Ma ho capito, ma un trans, ma qual è il problema? Che fastidio gli dà il trans? Non ho capito. A me non mi hanno mai dato nessun fastidio, facciano quello che vogliono, non vengono a darmi fastidio, perché nei parcheggi io dormo sul camion da 40 anni, nei parcheggi sai quanti ce ne sono di loro, delle altre che vengono lì, le donne ancora sono venute a Voulez-vous faire l'amour, Maglib, Kaine Krieg, tutte quelle cose lì, ma io gli dico vai via e vanno via. Ma di questi che avete fatto a quelli che rubano il gasolio, non ho capito? Allora, quelli che rubano il gasolio, li abbiamo fatto così, è stato beccato uno da un ragazzo giovane, poveretto. Guarda che l'autista internazionale non è come l'animale da cortile, l'autista che gira qui in Italia. Abbiamo capito, poi? Allora, il numero di targa di questo qua che rubava il gasolio la notte, il nome e cognome e la fotografia nel cessi, nei gabinetti, perché io non parlo come te, nei gabinetti, nelle toilette, pure, delle aree di servizio. Mi critica pure, lui, capito? Comunque, vabbè, lui è sparito. Cioè, in che senso è sparito? Non si è più saputo dove è andato a finire. Cioè, l'avete ammazzato? L'avete ammazzato? Non lo so, io come che sappia, caro mio. Non, cioè, non ci stai dicendo che uno rubava il gasolio, avete messo le foto lì come il grande colpevole e questi l'avete fatto sparire dalla circolazione? Sì, caro, voi che vanno a disturbare la mia polizia, poveretti che sono lì che non hanno neanche i pantaloni indosso, che io c'ho un rispetto per i poliziotti che la... mi sono ma lei usa metodi, neanche in Arabia Saudita fanno queste cose, si rende conto o no? Si rende conto? Questo è il nostro paese, è il paese della civiltà giuridica, è il paese di Beccaria, è il paese dei delitti e delle pene, è il paese dei più grandi costituzionalisti europei, tra i quali, lei lo conoscerà senz'altro, il professor Gustavo Zagrebeschi. Lei conosce il professor Zagrebeschi? Ma lei, io non so quello lì, io non voglio parlargli assieme. C'è due canali, uno sulla televisione, la 7, e questa qua che mi piacciono, c'è sempre lui che mi viene a farmi arrabbiare. Scusami, quindi, Adriano, conosci il professore Zagrebeschi, sì o no? No, non lo conosco, non so che roba è, sono un po' incolto. Zagrebeschi, che roba è? Peraltro? Devi pronunciare, scusami, Adriano, Zagrebeschi. Zagrebeschi non lo conosce, Parenzo non lo conosce Zagrebeschi, non è uno obbligato, ma siccome lui ha una concezione del diritto piuttosto particolare, come abbiamo testé sentito, perché mi sembra piuttosto particolare il suo senso di giustizia, no? Mi sembra, poi per carità. Va bene, Adriano, ti saluto, ciao Adriano, tu capisci tutto, ciao Giuseppe. Domenico da Roma, vai. Cruciani, dimmi, Domenico, è arrivato, dimmi. L'autunno, allora indossiamo ancora no. I camiciottoli, sì, tiriamoli fuori dalle armadie. Cioè, non mi dire che sei dalla parte di quel sindaco che si augura lo stupro alla Boldrini. No, assolutamente no, mi indigna la vostra indignazione di ieri, capisci? Ma in che senso? La nostra indignazione? Ma dai, ragazzi, però... È evidente, no? Perché? Non ho capito. Perché sei indignato per il fatto che ci siamo incazzati con questo signore? Dimmi. Ma scherziamo, posso capirlo da Parenzo che del politicamente corretto ci sguazza dalla mattina alla sera e che ci sta bello comodo. In questo caso non c'entra un cazzo, scusa. Ma da te che sdrammatizzi sulla morte delle persone, sui maltrattamenti degli animali? Cioè, la zanzara io che non si indigna per... Io non mi so, a parte indignato è una parola grossa. Io ho detto semplicemente che questo qua è un coglione. L'indignazione è un'altra cosa. Ho detto che questo qua, che vuole mettere uno stupratore a casa della Boldrini, perché secondo lui gli stupri sono colpa in parte anche della Boldrini, è un coglione. Cioè, ma vedi qual è il punto? Che non sto dando sostegno per quello che ha dichiarato, anzi, se c'è che reato, vuol la dire? Magistratura farà il ma suo posto. Ma non mi interessano i reati, che c'entrano i reati? Cioè, non me ne frega per dire, ti stai indignando su questa cosa, la zanzara che ha fatto carne ma di cosa, porco. Ma io non mi sto indignando su nulla, sto dicendo semplicemente che questo qua, che si augura alla fine, perché quello era uno stupro a casa Boldrini da parte del capo degli stupratori di Rimini, è un coglione. Le idee si combattono con le idee, non augurando a qualcuno la violenza e la morte. Imbecille, anche tu. Sì, benissimo, e se non è reato quindi stai condannando. Ma che me ne frega del reato? Non me ne frega nulla del reato, non so nemmeno se sia reato, non mi interessa, quareli da Boldrini, non mi interessa, non me ne frega nulla dei tribunali. Sto dicendo che se tu vuoi combattere le idee della Boldrini, e io le ho sempre combattute, le combatti con le idee, dicendo che è una stupidaggine, dicendo che è una cazzata, anche con parole forti, non augurando la violenza a una persona, chiaro? Ma certo, il punto è questo, che ti piace parlare di camiciottoli per non parlare dei problemi più seri che sono a monte, capisci? Ma quali sarebbero? Cioè non ho capito. È che nessuna delle alte cariche dello Stato, almeno a me non risulta, può darsi che sono disinformato, è andato da quelle vittime che sono tutte straniere, polacchi, ma su quello si può discutere, va bene, ma a me non me ne frega niente. In questo caso, quando non parlano, per me è molto meglio. Dovrebbero farlo sempre, non parlare. Cioè, per me è meglio che non parli la Boldrini. Forse non hai capito bene. Se la Boldrini non si esprime, benissimo, ottimo, stupendo, lo dovrebbe fare anche in altri casi. Ottimo, se non si esprime su questi casi qua, va benissimo, mi sta bene. Se andasse lì a fare la processione, sarebbe negativo. Ciao, amico mio, ciao. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer. Vi presenta la zanzara. siete lontani dal mondo reale 100 milioni di chilometri. Alla gente dell'accoglienza gliene frega nulla, un beato nulla. È un feticcio solo di questa subcultura di sinistra, come era un feticcio il lavorare meno per lavorare tutti, come era un feticcio quello della pensione dopo 19 anni, 6 mesi e un giorno, che ci ha portato a un disastro. Questa sinistra nella storia ci ha sempre portato al disastro. Questa è la stessa sinistra che vedeva nei paesi dell'est un mito e adesso vede nell'accoglienza un altro mito. Siete fuori strada, la gente non ne può più. Minniti è l'unico che ha intercettato veramente qual è il malessere di questa società. Punto. Diamole ai polacchi, diamoli. Un mese che aspetto la zanzara e quel mentecatto mi deve far incazzare dopo 5 minuti. Ma no, ci sono i tribunali e farà la giustizia. Eh sì, eh? Eh no, sono minorenni. Ma de che? Ma ammazzateli quei pezzi de merda. E intanto Don Cataldo continua i suoi esorcismi. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la Chiesa della nostra Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. E noi ci gloriamo di professarla. Stai ferma. Nel nome di Dio ti comando di stare ferma. Dio ti conceda la comunione di amore con Dio, con te stessa, con tutti i parenti, con tutti gli amici, con tutti i vicini. E c'è l'igno un cruce, le parti sono diverse, dicitele o detribuita, aperire il mio risolvere signatura e agios otemos, agios ischiros, vai via, vai via, dice ah, ragazzi, David è sempre il numero uno, eh. È sempre il numero uno. Intanto dicevamo, caro David, dove cazzo sei? Adesso torna, che Iwobi, il responsabile nero di colore dell'immigrazione o di non so che cosa della Lega Nord, sostiene che bisogna bloccare le frontiere perché c'è una ragazza di 4 anni, una bambina di 4 anni che è morta di malaria. Io una telefonatina a questo Iwobi la farei. Pronto? Iwobi? Sì. Sono Cruciani, come va? E Parenzo. Ah, Parenzo? C'è anche Parenzo, sì. Sì. Che ti fa schifo. Davide? Schifo. Davide, sì, Davide, Davide. Sì, sì, ecco, Davide, magari. Veramente mi avete preso proprio un momento sbagliato, perché sto andando da dentista. Da che fare da dentista? Bianco? Eh? Dentista come? Nero o bianco? Extracomunitario? Dentista, no? Mi stai prendendo per il fondello? Ma sto scherzando, dai, uomo, qual è il problema? Scusa una cosa, ma non ho capito, stai andando al dentista a che fare? Per i denti? Sì, ma che c'hai? Che problema c'hai i denti? Oh, no, è interessante, no, che problema... Forse il problema dei denti, il suo, non è quello. Scusami, ma lei è un dottore o un giornalista? Va tutte e due, faccio anche il dottore. No, posso aiutarti in questo caso, se c'è un problema ai denti, posso aiutarti. Attenzione che potresti prendere la malaria, eh? Attento. Bravo, bravo. Potresti prendere la malaria lì. Metti che il dottore sia un extracomunitario. Esatto, un extracomunitario, esatto. Con un figlio che abbia fatto un viaggio, che ne so, sul barcone, eccetera, eccetera. Che ne sai? Potrebbe portare la malaria o no? Va bene. Scusami, Uobi, io voglio capire una cosa, però, amico mio. Il signor Tony Uobi, per chi non lo conoscesse, perché infatti non lo conosce nessuno, è il responsabile immigrazione della Lega ed è un signore di colore. Cioè, sì, non è che sia lui che decide le cose, sarà Salvini che decide le cose, non è che il signor Uobi. Ma capito, responsabile immigrazione è proprio, capito, di colore della Lega. Abbiamo trovato l'unico nero razzista. È interessante come cosa, no? L'unico nero? L'unico nero razzista. nazista, un po' come se durante le leggi razziali ci fosse nel 38, pieno 38, c'è un ebreo che lei cos'è? Ma io sono fascista, ci scusi però, signore mio, mi scusi caro amico ebreo, siamo nel 38, c'è un signore che si chiama Mussolini, c'è delle leggi razziali e lei è fascista, e quello è un po' uguale, no? Comunque, per carità. I uomini ti hanno scelto per questo, perché sei nero? Avete finito di prendermi in giro? No, è Parenzo che ha detto questa cosa, io che c'entro. No, ma non mi pare una cosa così. Scusami, signori, io vi faccio una domanda soltanto. Sì, dimmi, uomini, dimmi. Secondo voi, sì. Italia, sì. Un paese civile Italia, sì. È un paese democratico? Ma che vuol dire? Sì, certo. Beh, è un paese, sì, molto. Allora... Oh, bravissimi, sì. Allora... bravissimi, 10 lode. Allora, se l'Italia è un paese democratico, permettetemi di scegliere dove appartenere. No, ma per carità, infatti questa che... Ma questo ci mancherebbe altro, volete, certo. Da me. No, Parenzo sta dicendo... Io ho scelto, Parenzo, ho scelto, sì, ho Parenzo. Scelto 24 anni fa, sì. Di aderirmi alla Lega, sì. E mi sto bene alla Lega, ma cosa volete da me? No, no, Parenzo dice che sei praticamente un utile idiota, questo vuole dire. No, ma dico che se uno è di colore, appunto, immigrato, che è arrivato qui da immigrato, come è arrivato lui, che è una persona per bene, brava. Una brava persona, contro i suoi fratelli migranti di oggi, a me fa sorridere il fatto che ci sia il responsabile dell'immigrazione di colore della Lega. Iwobi, scusami un attimo, qui c'è una questione molto semplice. Tu hai detto che bisogna chiudere i confini perché c'è stata una bambina morta di malaria. Ora va bene, tutto. Uno può dire chiudere i confini. Va bene tutto. Ma che cazzo c'entra il collegamento con la bambina morta di malaria? Scusami. Amici miei. Morire per la malaria nel 2017 in un paese civile come l'Italia è decisamente inconcepibile. Vabbè, adesso lasciamo bene, vediamo allora, quello che è successo. No, parliamolo, se vogliamo essere corretti. Ma la colpa di chi è? Di quelli che, di quelli degli immigrati che arrivano? Allora, domanda è che dobbiamo porci tutti quanti. Come mai oggi nel 2017 si muore ancora di malaria in un paese civile? Vediamo, vediamo cosa dicono i medici. Tu stai dicendo un'altra cosa, che dobbiamo chiudere le frontiere perché c'è una bambina morta di malaria. Allora ci sta arrivando, ragazzi, tutto c'entra. Ma dimmi perché c'entra l'immigrazione, allora, lo voglio capire. Allora, causa qual è? Qual è? Secondo te, che lo sai? No. Allora, causa il vento della Sahara? No. Allora cos'è? Se non è assolutamente l'immigrazione incontrollata. Cosa vuol dire? Ma che c'è? Tu stai dicendo che l'immigrazione incontrollata porta alla malaria e dunque questa bambina è morta per la causa dell'immigrazione incontrollata? Amici miei, dicendo cosa può essere la causa di... Ma non lo so, malattia. Ma lascialo decidere ai medici, no? Ma che ne sai tu? Stiamo parlando, ostie, insomma, abbi un po' di pazienza, ragazzi. I uobi, io voglio capire una cosa. Per te la causa è l'immigrazione incontrollata, sì o no? Secondo lei cos'è la causa? Ma io sto chiedendo a te, perché no, mi devi fare la domanda? La controdomanda? Non lo so, lo decideranno i medici. Stanno scoprendo le cause i medici. Che cazzo c'entra? Allora aspettiamo, io ho ipotizzato. Ma tu non hai aspettato, hai detto chiudiamo i confini. Signori, se vogliamo dialogare, dialoghiamo. Altrimenti se io non sono capace. Ma Davide, perché mi devi far fare la tua parte? Fallo te. Non sono abituato a urlare. Signori uomini, Tony uomini, io già la dai matti il fatto che nella Lega non si chiama Brambilla, Tony uomini. Cosa dicono nelle valli bergamasche quando Tony, secondo me, quando vai nelle valli bergamasche, lì alle feste, ci devo dire, era il Neger, no, guarda che è i uomini, è il nostro, scusa, vieni qui Neger, cioè, capisci? Non costringermi a sbattere i telefoni in faccia, non mi piace. Sono molto educato. È tutto grottesco. È vabbè, tutto ma allora grottesco. andiamo al sodo. Sono molto educato. C'è il dramma dei migranti. E esigo un po' di rispetto anche io. Sì, però io uomini voglio capire. Un po' di pazienza. Perché bisogna chiudere i confini? Perché adesso bisogna chiudere i confini? Perché secondo te, quello che sta avvenendo in questo paese adesso, secondo lei, è l'immigrazione questa, secondo lei? Ma io sto parlando della zanzara, della cosa, della malaria, non di quella. Secondo lei questa è l'immigrazione incontrollata, secondo lei l'immigrazione? Ma cosa c'entra questo con la malaria? Con tutte le sue problematiche connesse. E dunque io voglio che tu dica chiaramente quello che pensi, che allora, la malaria, la morte della malaria è la causa... Sembra che abbiamo parlato già abbastanza, dai, sto entrando da dentista, mi aspetta. Dentista, cava il dente, arrivederci, mi raccomando. Grazie mille, grazie per il dialogo. Ciao Davide, grazie, sei un amico, bravo. Ma che c'entra? Ma io ti sto... Ciao, ma sei tu che non vuoi dire quello che pensi? Una roba incredibile, guarda. Ciao. Lasciati un parento e alla defecazio non ci penso. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Dormivo a letto con una ragazza, a un certo punto mi è partita una scureggia di quelle lunghe, quelle che fanno proprio mentre ci sono svegliato, ho fatto scusa, ma mi piace, a me non tanto. Ma tu Giuseppe, scorreggiare la fine del mondo, troppo bello. Poi ti mando qualche audio, va bene? Così fai un confronto, vedi un po'. Ciao, buona giornata. Cruciani, sei un dilettante. Io sono un professionista della scorreggia. Mi alleno tutti i giorni ingurgitando pentoloni di fagioli messicani e bevendo casse di birra doppio malto. Il mio record è una scorreggia della durata di 1 minuto e 52 secondi. Credo che sia record mondiale. Sono imbattuto nelle gare di puzzette da almeno 5 anni. Il mio divertimento maggiore è andare al centro commerciale e mollare delle loffe silenziose, tossiche più del gas sarin. Io fa sta male, sento dalla voce che sta male. Bene, a proposito di Don Cataldo, ragazzi, però qui non c'è solamente il divertimento, per carità, la voce divertente di questo prete esorcista palermitano. C'è anche una mezza truffa, però, cioè le famiglie che si avvicinano a Don Cataldo in Sicilia perché credono che ci sia un diavolo dentro i loro cari, nella testa dei loro cari, dei figli, eccetera, eccetera, e ricevono queste risposte. Sentite, una famiglia, c'è un figlio in questo caso, c'è un ragazzo, alle prese con Don Cataldo. Sembra che dentro un diavolo, non ci vuole casa, ci sputò la merce, cose strane che una persona non fa. La famiglia vive la fede, ecco, questo è quello che bisogna, non ce la dobbiamo prendere con i bambini, ma a casa entra il demonio e poi disturba i più deboli, i bambini, quando i più grandi non stiamo in grazia di Dio. Se questo ragazzo sputa la maestra, la colpa non è del diavolo, è semplicemente un imbecille, un cafone. Questo sputa la maestra, la colpa è del diavolo. Ma dai, su. Ma così perché c'è un disturbo. Non abbiamo capito niente. Sì. È un disturbo. E se vuole sapere, il disturbo è partito da lei. Che la mamma deve essere una donna di fede. Figurati che cazzo gli frega il ragazzino se la madre è la donna di fede o no, quello sputa alla maestra, dai, sì. Sei Asmodeo, sei. Vabbè, sono Asmodeo, sì, ho ancora Asmodeo in groppa, e allora? Asmodeo, vai via. Benedetta dalla provincia di Latina, vai. Ciao. Dimmi, Benedetta, dimmi. Ciao ragazzi, io ho chiamato parecchio tempo fa, quindi il mio intervento era riguardo alla violenza subita da quella ragazza. Allora? Beh, io volevo portare la testimonianza di una ragazza normalissima di 20 anni, sì, che ormai non si sente più tranquilla a camminare per strada da sola. Cioè tu non ti senti più tranquilla a camminare per strada? Dove, scusi? No. In provincia di Latina, dove? In provincia di Latina, a Itri, che è un piccolo paese che ha accolto tanti... Non mi pare che ci siano asilo. Non mi pare che ci siano 50 stupri al giorno ad Itri, No, ad Itri. Assolutamente, però studio anche a Napoli. Allora tu non ti senti sicura a girare per le strade della città per che cosa? Per gli immigrati? Sì, anche per quello, perché anche per quello. Sono secondo me persone che non hanno la nostra stessa cultura. Sì, però ragazzi, dai, adesso non mi volete far passare, cioè non si può far passare l'idea che uno non si sente sicuro perché ci sono gli immigrati, dai, non no, diciamo no, puttanate. No, non è per quello, dai, perché io non mi sentirei tranquilla di incontrare un gruppo di ragazzi un po' ubriachi, anche italiani, ma di qualsiasi nazionalità. E allora? Ti sto parlando semplicemente... Di che cosa? Del nulla, allora? No, non è del nulla, è una preoccupazione di tutte le ragazze, penso. a girare adesso da sole, ovunque. Benedetta, scusami, adesso non puoi chiamare la Zanzara per raccontarci una banalità colossale. Ho paura a girare per la città, perché noi ce ne fottiamo. Cioè, questo è il punto, capito? Cioè, qual è il punto? Che hai paura a 20 anni in provincia di Latina, Itria, hai paura di girare per la tua città? No, ma non è vero. No, e allora no, che se è no è no. Cioè, o è sì o è no. Se è no, che cazzo hai chiamato a fare? Va bene. Non lo sai nemmeno tu. Certo, non lo sai nemmeno. Per questo. Per che cosa? Per dire che forse hai paura? Che cosa? Non che forse ho paura, che penso che sia una preoccupazione. Ma per... Hai paura reale. O no? Ma sì. Di che cosa hai paura? Non è una paura di quelle che ti bloccano dentro casa, è una preoccupazione. È una preoccupazione. Quando so che devo uscire da sola prendendo spesso i mezzi pubblici. A Itri hai paura? Ma no, anche a Napoli. A Napoli hai paura di prendere i mezzi pubblici a 20 anni, perché? Ma no, assolutamente. Dei scippatori hai paura? Di che cosa? Di che cosa hai paura? No, a Napoli il problema minore è proprio dei quello dei negri, di che cosa? Di che cosa hai paura? Non ho capito ma di che cosa hai paura. Anche dei ragazzi di colore. Sì. Hai paura o no? Ma sì. Hai paura di chi? Dei negri? Di chi? Io non li chiamerei in questo modo. No, ma quello sono però, affari miei, sì. Sono dei ragazzi di colore, hai paura? Ma un po' sì. E di che, hai paura di che cosa? Di essere circondata, di essere stuprata? No, di cosa hai paura? Com'è possibile che è successo a quella ragazza? Ma quella stava, non stava, ma non stava in autobus a Napoli o in metropolitana no, a Napoli. Era di sera, alle 10 di sera. Non può persone. Succedere dappertutto. No, non è così, non può succedere dappertutto. Va bene. Questa è una tua opinione. Giancarlo da Milano, dai, Giancarlo. Oh, Giancarlo. Pronto. Dimmi. Eccomi Giancarlo. Qua. Dimmi. Voglio dire, oggi passeggiavo col cane. Passeggiavi col cane, sì. Dove? Piazza Firenze. Sì. Caserma Montello. Qua dietro, sì. Allora? Ecco. Esco, cioè sono fuori col cane, escono due ragazzi di colore. Sì. Boom. Davanti c'è il punto slide, dentro a giocare, cazzo. Sì, ecco, perché non possono, coglioni, non, no? Non possono scommettere, non ho capito. Però non posso scommettere. Ma che cazzo ne sai se quelli erano, magari avevano appena finito di lavorare e sono andati a scommettere? Ma pure no, io. Sono usciti dalla caserma a casa. Ah, dalla caserma dove risiedono lì? Dove... sì. Cioè, dove mettono i profughi, dici, o comunque i richiedenti, esatto. Felicità, come direbbe esatto. Parenzo, i richiedenti asilo. E vabbè, sono andati a giocare qualche cosa la Stai, non so, magari sono andati a vedere, non sono andati a giocare, sono andati via a passare. Sì, cazzo, sì, va. Ma che cos'è che tiro del culo, non ho capito? Che giocano, che scommettono sul calcio, magari? No, è che sono soldi nostri che potrebbero dare agli anziani nostri, anziché questi cioè, qua. Tu dici che questi qua escono dalla caserma dove sono pagati da noi per sostare, in attesa di definire la loro posizione, vanno di fronte alla Snai. E giocano con i soldi nostri, dici. Sì, ma anche se vai fuori qui nella zona qua tu ti fa cercare la carità, insomma è una cosa insopportabile. E a te, a te questa cosa qua ti fa girare i coglioni? No, a me ogni cantone ti cercano i soldi, poi non è che gli rispondi male. Ma, però ti ho capito, fastidio, ma ti fa girare i coglioni questa cosa o no? Non ho capito. Sì, perché potrebbero andare a lavorare, cazzo. Ho capito, ma stanno lì perché sono ospitati lì in attesa di definire la posizione. Vai in alto mercato, va a lavorare. Ciao Giacca, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora ragazzi, a proposito della vicenda di Rimini, vi facciamo ascoltare una testimonianza abbastanza drammatica, anzi direi drammatica, della vicina di casa dei fratelli violentatori o di quelli che sono accusati di aver commesso lo stupro. Anche lei è marocchina, questa si chiama Geda Kajia, è una marocchina di 43 anni, un'operaia, che dice di essere stata picchiata, maltrattata, derubata da tutta la famiglia di questi due ragazzi marocchini che sono adesso in galera accusati dello stupro della polacca e della transessuale. Sentiamo, l'abbiamo fatta proprio qualche minuto fa, è una cosa incredibile, sentite. Pronto? Sì, Geda? Sì. Sì, buonasera, qui Radio 24. Buonasera. Buonasera, come sta? Buonasera, signora. Insomma. Che è successo? Avanti. No, niente. Come va la convivenza in questi giorni? È un po' dura perché adesso è uscito fuori questo problema, però guarda che già da mo che questa storia va avanti, però adesso quello che hanno fatto Firi... è venuto più casino perché sono venuti i giornalisti, perché i figli hanno commesso questo reato. Ecco, tu hai parlato con la madre in questi giorni, cosa dice? No, no, no, io non ci parlo con lei, gli hanno fatto il monumento, non posso parlare più con lei. E perché non puoi parlare? Perché io dopo quello che mi ha fatto, io non ci parlo con lei. Che ti ha fatto? Niente, mi mandava figli per minarmi. E per minarmi prima. Ma sì, i figli ti hanno picchiato, quelli che sono accusati adesso di essere violentatori? Sì, sì, anche loro, sì, mi hanno picchiato. E che ti hanno fatto? Botte di che tipo? Mi hanno fatto trauma cranico, trauma al cervello, trauma al bro sacro. E ti hanno pure derubato? Ti hanno derubato? Sì, sì, sì. Ma tu l'hai... Anche lei mi ha rubato. Pure? Ma scusa, sì. Ma non hai mai fatto denunce? Non hai mai chiamato la polizia? No, ha fatto le denunce. Gli hanno fatto anche il monumento. Allora, riassumiamo. Tu sei vicina di casa della famiglia, sì, dei due ragazzi marocchini che sono in carcere per accusati di aver stuprato la ragazza polacca e la transessuale. Sì. Pure il padre ha dei precedenti, doveva essere già espulso dall'Italia e poi è tornato, è andato fuori, sì, eccetera. Sì, sì, vero. Ma perché se la sono presa con te? Così? Perché sono dei delinquenti? No, allora... iniziata la storia, il padre è stato espulso nel 2014, l'hanno mandato in Marocco. Dopo questa signora è venuta a piangere da me, mi ha detto: mi puoi aiutare? Io gli ho detto sì, come no. L'ha aiutata, gli ha dato soldi per pagare l'avvocato per poter restare qua. Io ho iniziato a comprarla da mangiare tutto, dopo un po' mi sono stancata, gli ho detto: guarda, io ti ho trovato un lavoro da un signor, perché qui c'è tanta gente italiana, gli ho detto: ti ho trovato un lavoro. Lei mi ha detto io le palle degli italiani le vai a pulire te, io non voglio lavorare. Cioè questa ha risposto in questo modo: le palle, non voleva pulire il culo degli italiani come badante. Ma ha detto le palle, io gli ha risposto così: io anco la cacca degli italiani, se ha bisogno di soldi la mangio, se ha bisogno di soldi. Beh, il lavoro. Non esageriamo. Sembra una porcheria a me questa cosa qui. Sì, no? Sì, ma è vero, invece lei non ha voluto sapere niente, ha iniziato a mandarmi figli che mi danno addosso. Cioè, dunque, praticamente dal momento in cui tu non hai più, diciamo, dato dei soldi per aiutarli, questi qua ti hanno cominciato a picchiare i figli. Sì, sì, lei ha iniziato a mandare, lei il mandato. Ah, ma che ti dicevano i figli? Sono venuti una volta a casa, mi hanno rotto tutti i vasi, sono venuti i carabinieri a vedere, perché non è... Dopo io ho portato anche di trauma, di cicatrici, perché mi hanno graffiato, avevo le foto, tutto per fare. Ma ti hanno detto di ritirare la denuncia? Una volta lei mi ha detto: mi ritiri le denunce, o se no mi ha detto che faccio... posso parlare, dico quello che mi ha detto? Sì, sì, certo, come, esattamente come da dire. Mi ha detto: ti faccio scoppare da tutte e tre, uno a uno. Oh, mi ha detto queste cose. Ma veramente, ti ha detto così? Ma è una cosa ghiacciante, se è vero. Non ho capito, cioè, la madre ti avrebbe detto: se non ritiri le denunce ti faccio scopare da tutti e tre, cioè dal padre e dai due figli? No, il padre non c'era, c'era solo tre figli, lei c'ha tre figli e una bambina. Quando hai saputo dalla notizia che questi due ragazzi sono stati accusati di stupro, di aver stuprato questa ragazza polacca, il transessuale, ti sei stupito oppure per te è assolutamente normale? Guarda, ti posso dire una cosa, una mamma che manda figli a rubare, a lei, loro basta che portano soldi, loro erano piccoline, sono cresciute, loro mi hanno detto: stiamo crescendo qui bambini delinquenti. Ma io voglio capire una cosa, dunque non ti sei stupita? La verità no, perché loro sono abituate a fare di cose che la madre li manda. Invece ma tu loro... hai paura di vivere là insieme a questi? Io guarda, ma non ho venuto crisi d'ansia, ma... Amica mia, ti abbraccio. Mi dispiace molto. Vai, stiamo sul pezzo, si resiste qua. Terribile. Si resiste contro i delinquenti, si resiste. Ciao, grazie. Francesco da Treviso, dai, Francesco da Treviso. E pronto, ciao, ascolta, io volevo dirti una cosa, democraticamente, perché ti fai parlare tutti, ti dico che mi hai rotto i coglioni prima, quando hai chiuso la bocca all'ascoltatrice che ti ha detto paura, poi lei ha ritrattato, quindi evidentemente è chiaro, tanta paura non ce l'aveva. Chiusa la bocca, ma tu, no. Che cazzo di bisogno c'hai di dire alle persone... Sì. la gente in Italia ha paura, c'è gente che ha paura. Io sono un uomo di 46 anni e quando vado in giro con mia moglie per Udine ci sono questi cazzo di baluba, io lo dico baluba, ok, che guardano perché è vestita con una gonna. Allora c'è un fattore culturale, capisci? Che cazzo ti frega se guardano tua moglie che è vestita con la minigonna? Mi rompi i coglioni che la guardi in serie, mi dà fastidio, ti dà fastidio, questo che c'entra? Anche gli italiani guardano le donne, che cazzo vuol dire? Anche i bianchi guardano le donne, ma che non è la stessa cosa? Ma guarda, te l'ha detto anche la ragazza che ha chiamato prima. La ragazza che ha chiamato prima. Persone, o mi dice una cosa concreta, ho paura perché. In certi paesi del mondo stuprare ha un'altra valenza rispetto a quello che pensi. Figurati, ma lo so benissimo. Ma lo so. Significa fare sesso, eccetera. Anche per te, immagino. Significa dominare, capisci? No, non c'è dubbio. Allora, queste persone vengono qui e dice: se non la smetti di utilizzare questo comportamento, ma io ti faccio scopare dal mio marito, dai miei figli. Ma sono il primo a dirlo. Non va bene, senti, è inaccettabile. Francesco, mi fai parlare o no? Sì, allora, parla. Fammi parlare, allora, mettiamo le cose in chiaro. Allora, primo, io sono sicuro che alcune culture hanno islamiche, non solo, in Africa, eccetera, hanno dentro i germi della dominazione dell'uomo sulla donna e sicuramente in Congo, per esempio, esistono, pare, l'ho letto da qualche parte oggi, esistono gli stupri collettivi come tradizioni in alcune zone del Congo. Dunque, da questo punto di vista sono d'accordo con te, ma se uno mi chiama e mi dice io ho paura, dici, ma perché hai paura? Non lo so. Te lo dico io. Quando uno mi dice non lo so, che cazzo di paura hai? D'accordo, ma siccome sei democratico fai parlare pure a me. Sì. Allora ti dico questo, l'altro giorno stavo con mia moglie, ti ripeto, sto camminando per i giardinetti di Udine, ok? E allora? Tutto regolare, no? Sì. C'è un gruppo di 7-8 persone di loro, sai di chi stiamo parlando, che non sono lì. Tu l'hai chiamato Baluba. Sì, tu, va bene, dai, Baluba, io ho amici, solitari che sono allora, lì, ma amici. Allora? Allora ti sto dicendo che in generale c'è un atteggiamento di merda di queste persone. Ma guarda, non è chi se ne frega. Vengono qua e io non dico che devono essere sottomessi, per carità, però devono adeguarsi ai nostri comportamenti, compreso il comportamento di avere esuberanza sessuale verso le persone. Ma guarda che allora parliamo di cose concrete, ma se tu mi parli di guardare, ragazzi miei, ma è pieno di italiani che guardano le donne, ma che cazzo dici? Dai, su. Federico da Roma, dai, Federico. Federico, non c'è più. Claudio, Roma. Claudio. Ecco, io sto sentendo questi discorsi. E stiamo spostando proprio il lago verso un altro obiettivo. Vabbè, Claudio, che vuoi dire? E tanti discorsi sono quelli, ma uscita pure la malaria, il vaccino, gli extracomunitari e le cose serie le lasciamo tutte alle spalle. Tu hai detto il germe, gli africani hanno il germe, ma fate in giro in Sicilia allora. Ma l'uomo vuole. Ho detto il Congo, lo stupro collettivo, dai, su. Ma vabbè, ma il germe secondo te sta solo in Congo? Il germe. Claudio, ti abbraccio, ti do un bacio in fronte. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.